Io credo che non sia possibile dare in astratto definizioni circa direi, la prevalenza di utilità di una banca grande e una banca piccola. Il sistema bancario italiano però ha delle grandi banche che sono molto radicate sul territorio, ma anche delle banche medie, delle banche molto piccole che operano a sostegno tutte dell'economia. Quindi non mi pare che il sistema bancario italiano abbia una struttura dimensionale che sia direi tale da poter essere sottoposta a critiche profonde. Ecco, poi ovviamente meglio può sempre esistere, ma normalmente si dice che è anche nemico del bene. Ecco, il futuro non lo conosco, il passato dice che la prudenza e la lungimiranza delle banche italiane ha esentato il nostro governo da fare interventi massicci per salvare le nostre banche, come hanno fatto altri governi e come sia il ministro Tremonti e il presidente del Consiglio Berlusconi hanno anche sottolineato in più situazioni.